Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, è vero, siete in contatto con il Groove Master Studio per un nuovo appuntamento del Soundcheck, puntata numero 224 per la nostra prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera all'immancabile Francesco Tromba con tutte le sue informazioni. Buonasera. Buonasera Francesco, ci avviciniamo alla Pasqua, domani è Pasqua, lunedì Pasquetta. Sono sicuro che dalla Calabria arriveranno direttamente nella tua dispensa prelibatezze locali. Eh sì, dei super cesti che verranno divorati. Cerca momento. Di non abbuffarti domani, perché poi alle 15.30 abbiamo il soundcheck e quindi so che che mangerai, capretto? Certo, che Pasqua. Che vergogna, povera bestia, ancora con questa tradizione. Per forza. Sei legato alla tradizione religiosa o sei legato soltanto alla prelibatezza culinaria, al capretto cucinato da tua nonna? Prelibatezza culinaria, puoi stare tutti insieme. Stare tutti insieme, ma tanto poi alle 15.30 devi essere qui, eh? Vabbè, sarò qui, dai. Va bene, allora diamo il via alla puntata di oggi, che prevede un suono che ci porta indietro nel tempo, anche se le produzioni che abbiamo scelto sono attualissime, anzi il suono del futuro, un suono del futuro che si rifà a produzioni assolutamente retro, quindi il recupero di una sorta di swing jazz rivisitato dai giovani artisti. Sì, un po' riammodernato e un po' più veloce magari ancora. Allora, e anche noi oggi dobbiamo essere velocissimi perché abbiamo tanta musica da presentare con moltissime novità. Abbiamo anche il nuovo album di Didi Bridgewater da presentare, parlando proprio di jazz e di sonorità retro. Didi Bridgewater si è spostata a New Orleans per realizzare un nuovo album che presenteremo all'inizio della seconda parte del nostro soundcheck di oggi. Ma diamo il via con una giovane voce che ha un nome, ovvero Haley Tuck. Che cosa fa questa Haley Tuck? Recupera le sonorità dello swing degli anni 30, quindi un po' Edith Piaf anche per la sua esperienza parigina, perché ha vissuto per un diverso periodo a Parigi, però lei è americana, quindi recupera anche appunto Billie Holiday, tutte queste vocalità. Sì, poi influenzata anche dello swing manouche tipico parigino. Esatto, anche da quello. Senti, quanti anni ha questa ragazza? 23-24 anni, faccia molto simpatica questa Haley Tuck che vi presentiamo qui al Soundcheck dal nuovissimo EP che ha un titolo. Il suo nome Haley Tuck, Don't Think Twice al Soundcheck. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I'll just say. Eh sì, è arrivata la pubblicazione del secondo EP a suo nome, Haley Tuck, per la prima volta al Soundcheck di Radio 24 con questa sonorità tipicamente retro che sarà un po' il tema portante della puntata di oggi. Abbiamo suonato di tutto qui al Soundcheck, dal contemporary R&B, suoniamo i classici del soul, moltissimo jazz nella seconda parte della domenica, abbiamo lanciato nomi nuovi della discografia contemporanea e quindi andiamo a ricercare nuove sonorità che poi si rifanno al passato, come nel caso di Haley Tuck, che è un'appassionata proprio di vintage, oltre ad essere un'appassionata di jazz antico, potremmo definirlo così, è proprio un'appassionata di vintage, infatti credo che abbia lavorato in un negozio di abbigliamento d'epoca. Sì, in realtà è una storia particolarmente curiosa. Una volta compiuti 18 anni, i suoi genitori le consegnano quella che è la dote che consegnano tutti i genitori americani per l'educazione, cioè per scegliere se andare al college o farci altro con questi soldi. Lei ha speso tutti i suoi soldi in abbigliamento vintage. Per quale motivo? Perché è così? Sì, è appassionata, appassionata. Di cose antiche, di vestiti antichi. E poi tra l'altro ha deciso anche di trasferirsi a Parigi in cerca di se stessa, e lì ha scoperto di voler fare la cantante di jazz. Bene, e in questo periodo credo che sia in giro proprio per promuovere la sua musica, e direi di mandare un altro brano di Haley Tuck molto carino, intitolato Sunday Morning. Sunday morning, rain is falling, steal some covers, share some skin, and clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in, but things just get so crazy, living life gets hard to do, and I gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. That may be all I need. In darkness she is all come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. My fingers trace your every outline, paint a picture with my hands, and back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. But things just get so crazy, living life gets hard to do, and I'd gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. So crazy, living life gets hard to do. Sunday morning rain is falling, and I'm calling out to you, singing someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. Questo è il suono di Haley Tuck qui al soundcheck di Radio 24. Sarà a Roma in concerto, lo ripetiamo, quando? Il 14 di aprile. Il 12 di aprile. Il 12 di aprile all'Auditorium Parco della Musica. E da Haley Tuck mi viene quasi naturale tornare a riascoltare una bellissima canzone intitolata Don't Wait Too Long, portata al successo qualche anno fa da una ragazza che prima di Haley Tuck ha scoperto il piacere di suonare cose vintage, cose retro, ovvero Madeleine Peru qui al soundcheck di Radio 24. You can cry a million tears, you can wait a million years, if you think the time will change your ways, don't wait too long. When your morning turns to night, who'll be loving you by candlelight? Soundcheck, il suono della musica. Be the change that you want to see. Be the change that you want to see. E con questo brano intitolato Be The Change, alcuni anni fa abbiamo scoperto un'altra ragazza americana biondina molto carina con tratti delicati chiamata Kat Edmondson, una piccola stella di riferimento sul genere retro che ultimamente ha pubblicato un nuovo album che si chiama The Big Picture. The Big Picture, anche lei ha una storia molto particolare perché ha vissuto in una famiglia con una mamma appassionata proprio di musical, di cinema e di canzoni del songbook americano e pare si sia avvicinata alla musica molto presto scrivendo la sua prima composizione all'età di 9 anni. Poi è diventata grandicella e decide, come fanno anche molti ragazzi italiani, di tentare la fortuna partecipando a uno show televisivo. Sì, era American Idol, la seconda stagione di American Idol. Ecco, seconda stagione che naturalmente non ha vinto lei perché con una voce del genere non si può vincere. No, però comunque si è fatta vedere in televisione. Si è fatta vedere in televisione e le hanno fatto anche un contratto discografico, niente male, infatti lavora per una multinazionale. Allora, ascoltiamo dal nuovo album che si intitola The Big Picture. The Big Picture, il brano Rainy Day Woman, Kat Edmondson al soundcheck. Intitola The Big Picture, il nuovo album di Kat Edmondson, presente al soundcheck con Rainy Day Woman. E in questa puntata dedicata al sound retro delle nuove generazioni siamo pronti per presentarvi, a grande richiesta oserei dire, Crazy con la voce di Nadine, un artista che noi abbiamo scoperto rovistando fra le migliaia di artisti presenti in siti di riferimento in questo momento come Bandcamp e SoundCloud. E quando abbiamo passato per la prima volta Crazy, gli appassionati di musica di Radio 24 hanno invaso la nostra casella di posta elettronica soundcheck@radio24.it chiedendoci informazioni su Nadine. Chi è Nadine, che ha una voce particolarmente sexy? Sì, anche tramite Facebook ci hanno scritto in diversi. Nadine è nata da un pastore americano di Milwaukee, poi si è trasferita a El Paso. Un pastore battista. Ah, ecco. Non un allevatore. No. Beh, in effetti bisogna puntualizzare. Non ha memoria di sé senza il canto, quindi ha cantato fin da piccola, magari anche nella chiesa del padre. Le sue influenze sono variegate, da Frank Sinatra, Tony Bennett, quindi comunque molto swing. Non so, sì, se hai visto anche le sue foto su internet. No, non le ho viste. La voce è molto sexy, com'è? Corrisponde? Non proprio, diciamo. Perché? Perché è un pochettino chiatta. Ma perché c'entra? A me le forme anche un po' rotonde non dispiacciono, mio caro Tromba. Sì, però secondo me non spicca per bellezza, spicca di più la sua voce. Allora ascoltiamo la Crazy Nadine al soundcheck di Radio 24. You sit there and you complain that you're tired of being the same. You cradle yourself in pity. To try my Lord out, nothing's worked thus far, so why not raise the bar? Soundcheck, il suono della musica. E questa è una voce assolutamente riconoscibile e riconosciuta nel panorama internazionale della discografia jazz, l'inglese Jamie Callum con You and Me Are Gone qui al Soundcheck di Radio 24. Io ho incontrato Jamie Callum diversi anni fa, proprio quando venne in Italia per promuovere i suoi primi album, lui che è diventato poi col tempo il best seller della discografia jazz inglese. Un ragazzo appassionato di musica, anche un bravissimo pianista, eclettico, molto divertente sul palco, un vero showman, e ogni tanto anche i trasportatori di pianoforti, perché sai, quando si va in giro a fare concerti, mio caro Francesco, bisogna noleggiare i pianoforti per gli artisti. Allora lui ha uno sponsor, credo che sia Yamaha, non Steinway, ma quando gli prendono il pianoforte sono terrorizzati. Perché? Perché lui lo strapazza, lo prende, non voglio dire a calci, ma insomma ci si sdraia su, lo suona con i piedi, fa delle cose un po' un po' rock and roll sul pianoforte. Un po' matto. Un po' matto, ma questa cosa a me non dispiace. Ma tra l'altro lo sai con quanto ha iniziato, con quanto ha prodotto il suo primo disco? No. Aveva solo 480 pound, ha prodotto il suo primo disco. Il suo primo disco, ma non quello per la multinazionale. No, il suo primo disco da indipendente. Aveva forse neanche 20 anni. Beh, ha fatto bene. Un piccolo investimento per diventare poi il best seller inglese del jazz, e oggi è un ragazzo sorridente, anche perché ha un bel po' di soldini da parte. Eh sì, tra l'altro ha anche una gran bella moglie, devo dire, visto le foto. Ma tu sei attentissimo a questi dettagli. Sì, tra l'altro fa anche molto ridere, perché lui è bassino, non è una donna, diciamo, invece lei è un ex modella, alto 1,80 m, c'è molta differenza di altezza fra i due, e anche la rete li prende in giro, perché lui... Ho capito, e tu sei particolarmente invidioso. Sì. Vabbè, però tu non suoni il pianoforte. Lei è anche una scrittrice, inoltre, ecco, quindi... E quindi ti piace anche da un punto di vista intellettuale. Maggior ragione. Jamie Callum con la partecipazione di Lauren Vula dal nuovo album molto jazz, anzi qui suona proprio i classici del jazz, ovvero gli standard del songbook americano. Sì, il disco si chiama Interlude. Eccolo qui, Jamie Callum con Lauren Vula in un classico Good Morning Heartache. Good morning heartache, you old gloomy sigh. Good morning heartache, thought we said goodbye last night. I turn and toss till it seemed you had gone, but here you are with the dawn. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. And so it seems we met like this before and left before. Eccoci pronti per dare il via alla seconda parte del nostro soundcheck qui su Radio 24, e pronti per ascoltare per la prima volta il nuovo album di Didi Bridgewater, donna eccezionale, mio caro Francesco. Io vanto un'antica amicizia con lei e sono felice perché ancora una volta ci fa ascoltare una pubblicazione molto bella, molto interessante e anche molto divertente. Che cosa ha fatto Didi Bridgewater questa volta? Intanto ha firmato un nuovo contratto discografico con la etichetta Aoki, quindi distribuzione Sony in tutto il mondo, dopo aver prodotto proprio per la Aoki il disco del giovane talento trombettista della nuova generazione Theo Crocker. Ebbene, Didi Bridgewater si sposta a New Orleans per celebrare la musica di questa splendida città così importante per la musica contemporanea, e incontra quindi la New Orleans Jazz Orchestra diretta da un altro giovane talento chiamato Irvin Mayfield, trombettista di 36 anni che arrangia questa big band per dare la possibilità a Didi Bridgewater di cantare un repertorio assolutamente New Orleans. E quindi questa signora, campionessa di musica, vincitrice di 3 Grammy Award, vincitrice di un Tony Award come attrice di teatro e anche ambasciatrice delle Nazioni Unite, ci fa divertire e ci fa, fammelo dire, godere anche in questa occasione. Eh sì, sarà anche in Italia, lo potrete vedere live il 17 di aprile al Teatro Zandonai di Rovereto. Prima doveva suonare Jack DeJohnette, però poi è stato annullato il tour europeo e quindi ci sarà lei con la sua band. Lo so, me lo ha detto, lo posso dire, mi ha chiamato e mi ha detto tutto, e sarà a Milano anche per un paio di giornate dedicate proprio alla promozione di questo nuovo album. Ve lo ripeto, Didi Bridgewater, nuovo album, si intitola Didi's Feather, le piume delicatissime di Didi Bridgewater, che qui risuonano in Big Chief, brano realizzato in compagnia di un altro campione di New Orleans come Dr. John. Grandissimo personaggio lui. E qui viene fuori la vena umoristica di questi grandi artisti. Didi Bridgewater con la sua voce fa il verso proprio a quella tipica e inconfondibile di Dr. John. Big Chief al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Attenti appassionati di musica, soprattutto quelli che seguono Stevie Wonder, avranno riconosciuto la bellissima Golden Lady del grande Stevie, ma nella versione più jazz di un altro campione di vocalità come Kurt Elling, eccellente cantante, anche lui vincitore di vari Grammy Award e anche un bravo didatta. E fra gli allievi che Kurt Elling ha avuto negli ultimi anni c'è un ragazzo, questo sì, della nuova generazione, non so quanti anni ha adesso Sachal Vasandhani, più o meno? Una 35, credo. 30-35 anni. Sachal Vasandhani, ne abbiamo parlato diverse volte di Sachal Vasandhani, ma qui lo presentiamo con una nuova opera intitolata Slow Motion Miracles. Sì, tra l'altro sono entrambi di Chicago. Cresciuti a Chicago, e potremmo anche raccomandare Sachal Vasandhani con Kurt Elling, perché? Kurt Elling è vicepresidente della National Academy of Recording Arts and Science, la società che assegna i Grammy Award. E quindi potremmo aspettarci anche un Grammy Award per questo album di Sachal Vasandhani? Non lo so. Magari non è proprio da Grammy, anche perché è, secondo me, un album di passaggio, perché ci sono quasi tutte sue composizioni, mentre negli album precedenti erano quasi divisi in due, bilanciati comunque degli standard americani. Sì, composizioni originali ma in chiave molto jazz. Qui invece il suono del disco è jazzy, con strutture particolari, ma un suono che si avvicina al mondo del pop, per quanto sia molto particolare. Sì, la prima volta che l'abbiamo ascoltato insieme, devo dire, non mi ha entusiasmato più di tanto. Poi l'ho riascoltato a casa da solo e ti sei affezionato. Sì, sì. E succede così. Allora, Afternoon Sun per Sachal, perché questa volta il disco viene fermato soltanto con il suo nome, il cognome è stato abolito. Perché? Forse perché è troppo lungo. Strategie di marketing tipiche delle multinazionali. Tra l'altro è difficile da scrivere, magari risparmiano anche sulla stampa. Esatto. Sachal, per me, Vasandhani con Afternoon Sun qui al soundcheck da Slow Motion Miracles. When you go, all the lights leave my soul. Till you find me, heaven's eyes, I'm alright. Can you hear me? Me. Sound check, il suono della musica. From getting frisky. I'm in tulip. Hey. I'm in tulip. Allievo, come dicevamo, di Kurt Elling, anche concittadino, sono tutti e due di Chicago. Poi Sachal Vasandhani si sposta a New York per fare la sua carriera, incontrando gli artisti di riferimento della nuova generazione. Ha collaborato con il pianista Gerald Clayton, ha cantato con Gretchen Parlato, ultimamente ha realizzato anche un brano partecipando all'album della bravissima Shaina Steele, magari lo sentiamo più tardi, ma incontra a New York anche dei pezzi da 90. Ecco, l'artiglieria pesante del jazz come John Hendricks, con il quale duetta in questo brano che abbiamo appena ascoltato, intitolato One Mint Julep. Sì, tra l'altro in quel periodo ho letto in un'intervista, Sachal Vasandhani era appena tornato dall'India, perché suo nonno era appena morto, ed era coetaneo di John Hendricks, quindi lui incontra John Hendricks e si crea questa specie di connessione spirituale in cui lui quasi rivede suo nonno, come se cantasse quasi con suo nonno. Eh sì, il papà dei vocalist contemporanei, John Hendricks, incontra Sachal Vasandhani, che in questo periodo è molto impegnato proprio per la promozione del nuovo album per la Hokie, distribuzione Sony anche per lui, album dal titolo Slow Motion Miracles, non un album di jazz, forse neanche di jazz contemporaneo, ma un album che strizza l'occhio al pop, ma di grandissima qualità. Sì, ascoltatelo più di una volta, vi raccomando, perché magari la prima volta non vi piacerà. Ecco, questo è il brano che apre questa nuova pubblicazione per lui, Sachal, con No More Tears al Soundcheck. No more tears, no more tears, no more tears, no more tears. Though I always fall for your smile, the most beautiful poison was like a child. There were no more tears, no more tears, no more tears, no more tears, no more tears. Though you're the one, you are the one who took a long look at my heart and my hand, and he shrugged. There were no more tears. Soundcheck, il suono della musica. When I can let you go. Qui l'abbiamo detto, sempre Sachal Vasandhani, ospite però del bellissimo album intitolato Rise, con protagonista la voce di Shaina Steele. Abbiamo tentato un contatto con Shaina Steele per un'intervista, non ci siamo ancora riusciti, ma prima o poi, mio caro Francesco, cadrà nella nostra rete. Magari se riusciamo a intervistarli entrambi, visto che comunque sono amici, la connessione con il marito di Shaina Steele, perché si sono conosciuti all'università del Michigan, dove... Comunque io ho la mail personale di Shaina. Ah, ok, quindi magari... La posso contattare. E tra l'altro, siccome poi, come ti dicevo, a fine maggio mi sposterò a New York, prenderò un appuntamento proprio lì nella Grande Mela. Grandissimo. Ci provo, no? Magari ti raggiungo. Tentar non nuoce. Allora, siamo in chiusura. Noi ci risentiamo domani alle 15.30 per festeggiare la Pasqua. Che possiamo suonare domani per Pasqua? Facciamo magari una grande... Io ho un'idea. Che idea hai? Classici del soul. Bellissima. Che dici? Grande idea. Così possiamo raccontare anche un bel po' di storie. Eh sì. Super classici, anzi vorrei fare una cosa, fare proprio una ricerca e mettere proprio le opere prime dei grandi artisti del soul americano. Anche per capire da dove sono partiti. Per capire da dove veniamo noi. Sì. Da dove viene la nostra passione per l'R&B di oggi. Allora, noi ci risentiamo domani, vi lasciamo... No, basta con Sacha Alvasandani, abbiamo suonato abbastanza il suo disco nuovo, no? Facciamo una cosa, posso... Me sì? lo permetti? Cosa vuoi Io fare? Io ho un debole per lei, lo sai. Shine on Still con Christian McBride chiude il soundcheck di oggi con Piper Bag e qui voglio impazzire. I was staring at the sky just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be at, but then the